música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Era la fine degli anni 50, io abitavo sotto il monte di Lacugnano, che era una bella collina sulla strada per il lago Trasimeno. C'era un bel crocifisso in cima, ci andavamo a fare le passeggiate da bambini. Beh, ricordo che cominciò a circolare la voce in quegli anni che ci fosse un mostro, il serpente di Lacugnano. La domenica venivano tutti i cacciatori e venivano a bere nell'aia sotto casa mia, quel tempo c'erano i contadini. E partivano, andavano in questa pineta, si imboscavano, stavano lì mezza giornata, mangiavano pane e prosciutto, bevevano e tornavano con i fucili e la sera raccontavano. Nessuno lo vide mai, nessuno lo uccise mai, ma se ne parlò per tanti anni a Perugia dintorni del mostro di Lacugnano, un serpentone. Ma quanti ce ne sono nei nostri ricordi di animali fantastici, alcuni tratti dalla letteratura, ma ricordo che in quegli anni la mia fanciullezza era molto insistente l'idea che esistessero mostri giganteschi, un po' perché eravamo usciti da una guerra che era stata lambita dalla violenza della bomba atomica, che era qualcosa che trasformava, uccideva ma lasciava un alone lungo di metamorfosi e trasformazioni. Il Giappone non a caso partorì in quel periodo tutto il filone dei film di Godzilla, che improvvisamente i dinosauri erano riapparsi, erano entrati in collisione con la civiltà moderna, perché si temeva, si immaginava qualcosa stesse succedendo. Diciamo, è la bomba atomica, sono gli esperimenti. Poi venne il mostro, il Loch Ness, tante foto di questo serpentone che nessuno mai vide. Poi lo Yeti, giornali serissimi, come oggi potremmo dire i magazine più conosciuti e che sono nelle mani degli italiani, ogni tanto parlavano di queste spedizioni per trovare lo Yeti, il grande improntone dello Yeti, il piedone dello Yeti. E poi mi ricordo, io leggevo Buzzati, la storia del Colombre, questo mostro simbolico e molto psichico, che seguiva i marinai, poi il Kraken, poi le prove giganti, poi Moby Dick, poi un'infinità di altri mostri. L'umanità ha sempre pensato, soprattutto l'umanità degli ultimi anni, degli anni in cui le leggi sacre e indissolubili della natura ci appaiono come qualcosa di particolarmente divertente nel violarlo, nel cambiarlo, nel metterlo in discussione, ritorna a questa sorta di mitologica idea degli animali fantastici, dei mostri. Noi siamo abituati a un nostro passato arcaico e mitologico, popolato di ibridi, di chimere, di centauri, di sirene, di mostri fantastici. E poi esiste questa nostra capacità di immaginare che il mondo ci sembra così conosciuto, conoscibile, mutabile e riprogettabile, nasconda al suo interno animali ancora appartenenti al mondo più recondito del fantastico. È uno dei misteri che da sempre appassionano i biologi marini. La vita dell'Architeutis rex, meglio conosciuto come calamaro gigante. Ora si potrà sapere molto di più sul comportamento dell'invertebrato più grande del mondo, le cui dimensioni possono raggiungere i 18 metri di lunghezza. Il professor Tsunemi Kubodera del Museo Nazionale della Scienza di Tokyo è infatti riuscito a catturare per la prima volta le immagini di un calamaro gigante vivente lungo 8 metri, immortalato mentre attaccava una preda a 900 metri di profondità nell'Oceano Pacifico settentrionale. Ci sono molte ipotesi sul modo in cui i calamari giganti usano i loro lunghi tentacoli. Questa volta abbiamo scoperto che per portare il cibo alla bocca li arrotolano. 800 24 00 24. Avete nella vostra esperienza umana, nei racconti di famiglia, nei ricordi fanciulleschi o nel vostro viaggiare e guardare oltre i confini angusti del luogo in cui siete nati, vi siete prodotti, sentito mai parlare di animali fantastici? Avete mai sognato animali fantastici? Avete mai visto animali fantastici? Siete mai entrati in contatto con curiosità di animali fantastici che trascendano ogni idea della tradizionale zoologia? Non il normale cane, non il gattino, non il pesce, ma il cane a tre teste e il gatto furioso e inselvatichito, o il pesce con tanti occhi, che è uno dei personaggi simbolici del cartone animato dei Simpson. La città dei Simpson cresce attorno a una centrale atomica tenuta da un cattivissimo signore che naturalmente non si attiene a nessuna regola di sicurezza. E quindi ogni tanto Bart Simpson pesca il famoso pesce con tre occhi, con più occhi, perché anche lì, anche nel cartone animato, anche nella più corrosiva satira della nostra civilizzazione, esiste l'idea del mutarsi fantastico della natura animale. Venne verso di noi e ci ringhiò contro. Io stavo per uscire dalla macchina, ma Bill mi gridò di non uscire. Allora mi resi conto che non valeva la pena di farsi ammazzare. Lo guardi, ma la tua mente non risponde perché non sa cosa sia un serpente marino. A più di 70 anni dall'esplodere del fenomeno Nessie, gli avvistamenti nel lago continuano. Penso resti valido ciò che si dice, cioè che per vedere il mostro di Loch Ness basti chiudersi in un pub a bere whisky scozzese al malto. Ma io ero sobrio, eppure ho visto qualcosa di vivo. Ho visto le tre gobbe tipiche, mai lo avrei immaginato. Erano tre gobbe distinte, le ho osservate per 15 minuti. Nuotava controcorrente, lentamente, ma controcorrente. Il primo avvistamento ufficiale del mostro di Loch Ness sembra risalire al VI secolo, quando un monaco irlandese redarguì la feroce creatura salita in superficie, imponendole di tornare nelle oscure profondità del lago. Ma fu soltanto dopo la fitta serie di avvistamenti degli anni 30 che ebbe... Eppure la criptozoologia è una scienza esatta, esistono studiosi, scienziati che studiano ciò che appartiene alla costituzione del mondo animale, oltre le specie che tradizionalmente più conosciamo. Anche una scienza che tende a molte volte sconfessare idee fantastiche come quelle del mostro di Loch Ness, come quelle del Kraken. Esisteranno dei calamari abbastanza grossi, ma immagino è capace di stritolare una nave e di oscurare il sole con la loro mole possente, come si vede nei film di pirati. Probabilmente è poco possibile, o forse probabile, o forse possono esistere in qualche profondità oceanica che noi non conosciamo. Questa mattina al telefono ho esperti di criptozoologia, perché abbiamo visto che è uscito un libro, All'ombra dei falsi mostri, criptozoologia, tradizioni popolari e scoop giornalistici, che edizioni Ananke, scritto da due scienziati, uno esperto di criptozoologia che è Pasquale Saggese e Maurizio Mosca, che è un veterinario criptozoologo anche lui. Abbiamo entrambi al telefono. Pasquale Saggese, buongiorno. Buongiorno. Maurizio Mosca, anche lei è in linea, buongiorno. Sì, sono in linea, buongiorno. Ecco, noi abbiamo dato un'apertura fantastica cercando di dragare quelli che sono i ricordi familiari e epici di ognuno dei nostri ascoltatori. Ma in realtà, dei tanti animali fantastici di cui si sente parlare, quali sono le basi certe, accertate, voi che siete scienziati, Saggese? Ma le basi certe sono varie ed eventuali, nel senso che nella grande maggioranza dei casi, come tra l'altro lei giustamente ha precisato in precedenza, l'eziologia dell'avvistamento non è la specie nuova né tantomeno la specie estinta, si tratta di individui straordinari appartenenti a popolazioni ordinarie. Le faccio un esempio su tutte: il drago cinese descritto con due lunghi baffi e una lunga lingua può essere legato ad avvistamenti di serpenti che stavano cibandosi. Quando un serpente ingoia un mammifero, un ratto, l'ultima cosa che tende a ingoiare sono chiaramente le gambe posteriori e la coda, dando quindi l'idea di avere delle grosse zanne o dei grossi baffi e una lingua lunga. Anche il biscione stranoto ha un omettino che escono solo le gambe dalla bocca, quindi è notorio che il serpente si gusta bene l'ultimo boccone. Quindi chi ha visto il famoso serpente cinese biforcuto ha visto un serpente se ne mangiava un altro. Ha visto un serpente che mangiava un altro serpente, anche se è difficile perché ofidiofagi da quelle parti ce ne sono pochi. È più probabile che stesse mangiando un mammifero. Immaginiamo appunto un ratto piuttosto che un animale che abbia comunque una coda, e la coda è stata cambiata per lingua e le zampe posteriori per zanne. Ecco. Ecco, sentiamo subito, perché il primo segnalatore di mostro è Samuele, che ci parla di un mostro delle valli bergamasche. Samuele, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola. Qui. E cosa si parla? Di quale mostro si parla dalle vostre parti? Ma la chiamavano la vipera cornuta, praticamente una specie di vipera lunga di 40 centimetri con due corna. E la particolarità di questo animale di... Oddio, è scomparso. Ah no, riapparso. Ma sì, Allora, nessuno l'ha visto, a parte i nonni nelle valli. E lei ha qualche nonno che ha testimoniato aver visto la vipera cornuta delle valli bergamasche? Sì, era mio zio Santino. E lucidamente lui diceva: ho visto questo serpente con le corna. Sì, e la particolarità poi di questo serpente era che invece di mordere aveva un alito velenoso che praticamente avrebbe ucciso all'istante. Ah beh, certo, come un basilisco. Allora, sentiamo Maurizio Mosca, che è anche veterinario, oltre criptozoologo. Del serpente fiatella con le corna, cosa ne sa lei? Ma quello che hanno ripetuto i colleghi prima, cioè nel senso che probabilmente sono dei fatti naturali che vengono enfatizzati dall'osservatore, quindi poi tra la parentesi di animali fantastici o tra leggende e realtà nella Lombardia ce ne sono parecchi, c'è un lungo elenco. Ne ricorda qualcuno, così vediamo se riusciamo a collegarli anche all'immaginario dei nostri ascoltatori. La biscia cornuta, poi c'è la biscia con il serpente crespato. Poi hanno anche dei nomi anche dialettali, il gigiat, tutte queste forme. Sono sempre serpenti strani? No, dai serpenti ai folletti a tutti anche altri animali. Io ricordo il pesce siluro, fa parte di questi animali fantastici. È un animale reale che purtroppo ha infestato i nostri fiumi e appartiene alla realtà in quanto che vengono pescati. Sì, ma perché se ne parlava in maniera così fantastica di questo pesce siluro? Mi ricordo ci fecero documentari, interviste, come se appartenesse a una specie non ancora conosciuta, quando in realtà è un pesce schifoso, ma come altri. Silurus glanis è classificato nella zoologia ufficiale, raggiunge dimensioni certe volte impressionanti, perché si parla addirittura di 4-5 metri. Nei nostri fiumi, comunque, che poi sono relegati ai fiumi del nord, raggiunge 2,5 metri, che è sempre una dimensione impressionante. Beh, un bel pescione. Beh, io volevo riallacciarmi anche al discorso che faceva lei prima, la storia dei mostri, che è sorprendentemente coerente, perché per lo più sono comparsi nei miti, però molti hanno oltrepassato, hanno preso una forma reale quando la loro esistenza è uscita dalla leggenda e ha oltrepassato la storia della scienza. Così abbiamo che il Leviatano, che tutti conosciamo, è diventato la balena o capodoglio. Il Kraken, che lei prima parlava, è diventata la piova o il calamaro gigante. Che esiste? La sirena, il dugongo, il lamantino, insomma. C'è esiste molti... il calamaro gigante, sì. Mi scusi. Il calamaro gigante esiste? Ma il calamaro gigante sì, esiste. In realtà è uno degli enigmi zoologici, perché non è mai stato osservato nel suo ambiente naturale, però carcasse... Anzi, le dirò di più. Esistono due tipi di calamari, cioè il calamaro gigante e il calamaro colossale. Il calamaro gigante è l'Architeutix. Adesso ultimamente nei mari, specialmente nella zona della convergenza antartica, è stato scoperto un altro tipo di calamaro molto più grosso dal punto di vista del corpo, che è il Mesonicoteutis Hamiltoni. Ma come quelli che vediamo nei film che stritolano le navi, no? Esagerato. Ma questo è un po'... Qui torniamo sempre nel discorso tra leggenda, tra mito e realtà. Cioè il calamaro attacca effettivamente le navi, ne sanno qualcosa i pescatori irlandesi con i loro currac, ma le attacca per un semplice fenomeno naturale, per difesa. In quanto che il calamaro gigante è una delle prede preferite dei capodogli. Ma è commestibile, quindi, cioè se uno potesse catturarne uno se lo può mangiare, diciamo? No, assolutamente. Assolutamente, perché non appartiene alla nostra catena alimentare, in quanto che, essendo pesante, per stare a galla è ricco di ioni ammonio. Ioni ammonio rendono le carni mangiabili perché sanno di ammoniaca. Quindi fa schifo, è una cosa orrenda. Sentiamo, diciamo, Daniela. Che si passerebbe un brutto quarto d'ora nel bagno, quindi... Beh, allora sentiamo Daniela, che ha avvistato un mostro di quelli più classici. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Chi ha visto lei? Nella mia infanzia, noi ci riunivamo nella casa di mia nonna in campagna, eravamo tanti cuginetti, fratellini, e la sera c'era un contadino che aveva anche un aspetto bieco, perché per noi perlomeno, perché era zoppo, che ci raccontava di aver visto il lupo mannaro, e la prova certa, provata, sicura, era una porta che, quando ci trovavamo davanti, svenivamo dalla paura, era una porta che aveva dei graffi sul legno, insomma come delle schegge che fossero state tirate via da un lupo mannaro che voleva entrare a tutti. E per lei era prova sufficiente dell'esistenza, sì, del lupo mannaro? Sì, quella era prova certa, e dopo noi la sera... Per averle fatte lui col falcetto, scusatela. Sì, sì, l'aveva fatto lui, oppure chissà cosa. E dopo andavamo a letto con i capelli dritti dalla paura, però la sera eravamo lì un'altra volta, tutti ascoltare quello, e poi dopo a tutti i fantasmi, insomma. Ecco, non so chi dei miei ospiti può rispondere, io penso che il licantropo, il lupo mannaro, non rientri nella categoria dei mostri studiati dai criptozoologi, non so, saggese? No, diciamo, allora, due cose. Allora, se il lupo mannaro potrebbe anche essere spiegato in qualche maniera con l'ipertricosi, che adesso è un fenomeno ben noto, addirittura Barbara D'Urso ha ospitato due o tre... sì, di mostri, questi, esatto. Dei Guinness dei primati. Esattamente, qualche tempo fa magari erano meno noti, potevano generare, potevano destare anche appunto il mito del lupo mannaro, ma non è una cosa attinente alla criptozoologia quanto alla mitologia. Io volevo però riallacciarmi, se possibile, al discorso della vipera cornuta, nel senso che la vipera cornuta in Italia esiste, dovrebbe essere la vipera ammodites ed è la più grossa delle quattro vipere che noi abbiamo. E ha l'alito puzzolente veramente? No, però le vipere soffiano. Ah, ecco. E da qui arrivare all'alito del basilisco che pietrifica, che avvelena, è un attimo. Certo, non useranno il colluttorio, quindi non sarà profumato l'alito della vipera. No, non si sente, sono animali talmente piccoli, né? Sono biscette, poche decine di centimetri, mortali molto spesso, ma comunque non grandi. Allora, però... 800240024, continuate a segnalarci, come stanno molti facendo, senza paura di risultare ridicoli, quelli che sono stati i mostri che hanno assatanato la vostra vita nel ricordo, nell'immaginario o anche nella visione diretta, ammesso che qualcuno di voi l'abbia mai visti. Melog 2.0. Padre Vaca, un sacerdote, nella seconda metà del secolo scorso ha trovato dei corpi giganti, ossa che in realtà sono ossa umane di dimensioni più grandi rispetto al normale. Io ho personalmente visto e ho maneggiato un dente, un molare umano, sicuramente umano perché l'abbiamo messo al vaglio di esperti dentisti e anatomopatologi, i quali hanno effettivamente confermato che la forma è quella di un molare umano, ma le dimensioni sono assolutamente spropositate, per cui questo ci fa pensare a un gigante, poteva appartenere solo a un gigante. Stiamo parlando di criptozoologia, di animali fantastici, di ibridi, di chimere. Vediamo che a varie latitudini del nostro paese esistono mostri specifici. Lo stiamo facendo con gli autori di un libro, All'ombra dei falsi mostri, criptozoologia, tradizioni popolari e scoop giornalistici, scritto da Pasquale Saggese e Maurizio Mosca, che sono ospiti nostri, edizioni Ananche. Ma molti ascoltatori mi stanno segnalando altri avvistamenti di mostri fantastici. Emma Maria su Facebook mi parla il mistero della bestia del Gévaudan, un giallo criptozoologico della fine del Settecento in Francia. Chiunque poteva fare la fine di Cappuccetto Rosso. Mi dice che al Museo delle Alpi del Forte di Bard in Val d'Aosta fa bella mostra di sé un esemplare di Dau imbalsamato. Poi mi diranno i nostri ospiti di cosa si tratta, ma Marco mi parla di un mostro avvistato dalle sue parti. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sì, una decina d'anni fa, verso settembre, io avevo una quindicina d'anni. Parliamo del Vicentino, zona sì, di Vicenza. Del Vicentino, sì, sì. E, nel giornale di Vicenza era apparso questa notizia che praticamente nell'altopiano di Asiago si era avvistato questa specie di umanoide con squame, un po' di squamo, un po' di pelo e faceva sparire le capre. Il famoso ciucciacapre di cui esatto, si parla tanto. Esatto, succhiava il sangue e lasciava il resto. E praticamente una sera tra amici c'era un fratellino di questo nostro amico e io ho fatto la parte del ciucciacapre. Da allora al paese mio sono riconosciuto con questo nome, hanno tolto la capra e hanno lasciato ciuccia. E io mi ricordo che anch'io e mio fratello da piccolo ci mascherammo da lupi mannari e gettammo il terrore in una piccola frazione accanto a Perugia. Tutti hanno avuto questa malagurata idea di riverberare e confermare la presenza di mostri paesani. Ezechiele. Buongiorno. Lei già ha un nome che ricorda Ezechiele Lupo, quindi chi ha visto? È vero. E volevo raccontare di una storia che ho visto personalmente. E ho sempre sentito raccontare del mitico catturavacca in Calabria. Catturavacca, un serpente enorme che praticamente si raccontava che faceva cadere le mucche a terra per succhiare il latte, per allattare praticamente. Era un serpente anche questo? È un serpente. Cioè talmente grosso per stendere una mucca e poi ciucciargli il latte? Sì, questa è la mitologia. E lei l'ha visto? Io mentre ero a caccia con mio padre, con altri amici, è spuntato fuori questo serpente enorme. Ma quanto era grosso? Era grande, almeno 5 metri di lunghezza, sarà stato grosso 12-13 centimetri di diametro. In che zona esattamente? Località Sovereto, vicino alle Castella, in Calabria. Ecco, guardi, siccome abbiamo personalità in grado di darci risposte certe, Maurizio Mosca, forse che è veterinario criptozoologo, lei ritiene plausibile che in Calabria esista un serpente con quelle dimensioni? Sono state segnalate anche in altre zone della Calabria, anche a Rossano, a Polia. Molto probabilmente si tratta di serpenti allevati da incauti acquisti che vengono poi liberati. Pitone, quindi è un pitone, un reale? Sì, sicuramente. Guardi, molto spesso la storia più bella a volte non è legata al fatto documentato, provato inequivocabilmente, ma a ciò che sarebbe potuto accadere nelle speranze e nei sogni degli uomini. Io personalmente ho censito centinaia di questi avvistamenti di animali misteriosi, chiamiamoli così, in Italia. E diciamo che molte volte c'è l'idea di acquistare dei draghi di qualche isola particolare, più di quello, guardi, mi scusi, sono entrato, sì. Più di quello che noi immaginiamo. Nel lago dell'Acceso ultimamente, lì dalla parte di Grosseto, e in degli stagni della Sardegna sono state avvistate anche dei coccodrilli. Purtroppo ci sono degli sciagurati che comprano questi animali, non li sanno mantenere e poi quando crescono pensano bene di liberarli. E qui posso lanciare un messaggio, ci sono anche dei centri di raccolta che li ultimamente è stato trovato, mi sembra qui vicino a Roma, un serpente velenosissimo che qualcuno aveva comprato poi aveva lasciato in giro. Sì, sì. Ma no, io poi ritornando anche al discorso tra leggenda e realtà, la Lombardia per esempio, ovviamente la regione in cui vivo, è molto ricca di tradizioni di animali strani e anche di racconti particolari. Per chi si ricorda, nel 66 nel laghetto della Falca, qui a Sesto San Giovanni, i giornali dedicarono ampi spazi a un mostro che si aggirava in queste acque qui. Venne addirittura interpellato Angelo Lombardi, il famoso amico degli animali. Ah, l'amico degli animali. Che sentenziò che c'era un mostro di Loch Ness lì dentro. Tant'è che Angelo Lombardi, poi che qualifica scientifica aveva per fare l'amico degli animali? Ma era semplicemente un cultore amatore degli animali, con una certa cultura ovviamente, viaggiava parecchio, era sempre... Aveva letto molte enciclopedie. Abbiamo al telefono Marco Signore, che è un paleontologo. Buongiorno Marco Signore. Salve. L'ho tenuto in ascolto finora perché volevo un parere approfondito e tecnicamente affidabile rispetto ad esempio, non so, la bestia che ha citato la nostra ascoltatrice in Val d'Aosta. Esistono, come nei film, come nell'isola del Dottor Moreau, come in Jurassic Park, la possibilità che animali preistorici possano ancora prodursi in talune parti del nostro pianeta, o è solo fantasia? Beh, innanzitutto bisogna capire che si intende per preistoria. È altamente improbabile che animali dell'epoca dei dinosauri, per fare giusto un esempio, possano ancora esistere, perché il pianeta è cambiato, perché c'è tutta una serie di altre problematiche che non sto qui ad approfondire, però esistono tantissimi animali che risalgono a prima dei dinosauri e che vivono tuttora, e c'è l'acanto per esempio, che è un pesce che dovrebbe essere estinto dal Cretaceo, invece sta ancora in giro, il tuatara, che è una specie che somiglia a una lucertola, sta in Nuova Zelanda eppure risale all'epoca dei dinosauri. Per non andare troppo lontano, le stesse tartarughe, probabilmente i pipistrelli, sono animali che vivono da molto molto prima di noi. Quindi occorre fare un distinguo e non immaginare soltanto animali fantastici, giganteschi, il Tyrannosaurus Rex che appare e si reincarna nei musei, che è una delle più terrificanti leggende contemporanee, la storia dei dinosauri che ritornano. È una possibilità che totalmente, come ci sta dicendo lei, totalmente improbabile. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei che ha visto? Allora, no, io non ho visto, però passavo oh mio Dio, un ritorno tremendo. Adesso glielo togliamo. Grazie. Ecco fatto. No. Lo so, resista, perché fa parte delle necessità, sì. Ok. Dunque, io passavo le mie vacanze di bambina in Brianza. E come arrivavo tutti gli anni, mia nonna mi raccomandava di non guardare negli occhi i galli con corpo di serpente, perché mi avrebbero paralizzato, quindi proprio tipico del basilisco, no? Dei galli con il corpo di serpente? Sì, assolutamente, o meglio dei serpenti con la testa di gallo. Un serpente piumato, Quetzalcoatl. Sì, esatto, però non l'ho mai visto. Invece ho visto Chiamarla leggenda mi sembra sbagliato, perché la leggenda è qualcosa di incontrollabile, no? Su un muro di un ex convento atusiano, quindi vicino a Erba, cioè Erba e Lecco, c'era dipinto un serpente, e questo serpente, dopo ogni verniciatura, imbiancatura, insomma qualunque tipo di lavoro sul muro, rispuntava. Beh, perché era il diavolo non si toglie con una mano di calcio. Però l'ho vista, adesso non c'è più il muro, sono tornata a controllare, ma non c'è più neanche il muro, quindi non c'è più neanche il diavolo. Beh, perché non ci sono più manco le suore, è chiaro, è esatto. Tutto estinto. Allora, andiamo al punto. Mi segnala Fabrizio Intonti che su YouTube c'è un filmato con uno squalo preistorico in Giappone. Marco Signore, lo squalo preistorico fa parte dei mostri plausibili? Beh, più che plausibili, esistenti. Squali preistorici, cioè squali primitivi, li chiamiamo così. Io parlo in maniera approssimativa, sì, seguo la vulgata. Sono preistorici, sì, da questo punto di vista. Ma ne esistono anche diverse specie, tutto sommato. Sicuramente non esistono gli squali giganteschi tipo il famoso megalodon lungo 14-15 metri, però esistono questi squali che raggiungono pure dimensioni considerevoli, 4-5 metri, l'Exancus per esempio, e queste grosse bestiole vivono in profondità, ma vivono tuttora, e il mondo è pieno di animali, soprattutto il mare è pieno di animali che non conosciamo e che probabilmente stanno là da molto prima degli esseri umani. Guardi, noi abbiamo una testimonianza straordinaria, ci chiama un ascoltatore, Osvaldo, che è un ex sommergibilista. Osvaldo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Fermi, però lasciamo un attimo di suspense. Melog 2.0. Immaginate un viaggio nel tempo, fino a un'epoca molto anteriore alla comparsa dell'uomo. L'Himalaya non esiste ancora e l'Atlantico è largo la metà. Solo foreste di conifere e distese di felci. È il regno dei dinosauri. Rettili di 5 tonnellate come il tirannosauro incedono minacciosi. Ma i dinosauri non sono gli unici giganti. Enormi pterosauri dominano i cieli e sotto di loro imponenti rettili marini predano i ricchi oceani. Pasquale Saggese, criptozoologo, esperto di criptozoologia. Molti mi chiedono qualcosa di più sulla leggenda dello Yeti. Oggi se ne parla un po' meno, ma per tutti gli anni 50 e 60 ha appassionato le cronache. Cosa c'è di accertato sulla figura dello Yeti? Allora, innanzitutto un saluto a Marco Signore, che conosco e stimo. Per quello che riguarda lo Yeti, ma c'è da fare un discorso più ampio, nel senso che la nominologia relativamente alla criptozoologia è un fenomeno che interessa praticamente cosmopolita, cioè in ogni angolo del mondo quasi c'è la presenza di un uomo selvatico che può essere più o meno vicino alle città, alcuni descritto come abitante di posti lontanissimi, in altri casi abitante del bosco dietro casa o del borgo. Poi ci sono delle emergenze, veri gigantismi mitologici, nel senso dello Yeti, appunto del Sasquatch americano e quant'altro. Una spiegazione, sottolineo una spiegazione, potrebbe essere di natura culturale, nel senso che soprattutto in Europa e in Asia l'uomo ha vissuto, per lo più in Europa, affiancandosi per un periodo della sua vita con l'uomo di Neanderthal, che era specie, riconosciuta come differente. Cioè, quando un uomo di Cro-Magno, nella fattispecie, si imbatteva in un uomo di Neanderthal, lo vedeva come una diversa umanità. Diceva, sei una bestia, praticamente. E la cacciava pure. Accade oggi qualcosa di simile fra uomini non proprio identici nella loro configurazione fisica. Quindi il primo esempio di discriminazione è stato fra il Cro-Magnon e l'uomo di Neanderthal, probabilmente. Non il primo, si chiama selezione naturale, più forte vince. È sempre stato così fino a quando l'umanità è diventata, tra virgolette, umana. È ancora il principio, come ben si sa. Quello ormai è un ramo estinto della nostra evoluzione, ne esiste ben poca traccia, quindi non è plausibile, allora, che o mi sbaglio. No. Allora, io sono non ho i mezzi per poter dire se l'uomo di Neanderthal è estinto piuttosto che no. ci sono degli ottimi lavori che se ne occupano. Io non, personalmente non posso dire che c'è un piccolo dubbio che in alcune zone dell'Asia sia ancora vivente. Il punto è diverso però, relativamente alla fioritura di tutti questi miti dell'uomo selvatico, può essere un retaggio ancestrale, cioè può essere un'antica convivenza che è rimasta nella cultura orale, nella fattispecie poi dopo scritta, presente, metabolizzata chiaramente, appunto metabolizzata nell'uomo selvatico, nell'uomo villoso, che ha magari delle caratteristiche come le orecchie a punta, eccetera, eccetera, dal fauno in poi. Sentiamo Davide. Davide, buongiorno. Lei è un grande lettore di fumetti, quindi ha una familiarità nell'identificare e classificare i mostri. Esatto, più che altro perché leggendo da un po' di quando ero un po' più giovane, seguivo molto le avventure di questo archeologo del mistero, senza fare nomi. No, e perché e Michael, sì, può dirlo benissimo. Martin Mister, tanto cioè, per intendersi. Fa parte, io penso che il fumetto sia una forma contemporanea di letteratura, a pari dignità che la letteratura scritta, assolutamente. Io sono convintissimo di questo, anch'io. Infatti cerco di inculcare questa cosa a mio figlio perché non vuole leggere. Ma no, leggere non è un'espressività di serie B solo perché è messo in forma sequenziale, diverso. Ma invece ci prendono un po' in giro perché ci danno ancora un po' come se fossimo dei ragazzini che leggiamo ancora i fumetti. Vabbè, ma è un punto di vista estremamente passatista. Io ho preso molto dai fumetti. Soprattutto l'aspetto leggendario oggi è trattato, o la mitologia o la rivisitazione del nostro passato fantastico, visto in maniera molto più coerente in tanti fumetti. Io sono stato poi immaginiamo cosa è diventato ormai il culto dei manga anche alle nostre latitudini. Domenico, visto. Sì, sì. Quindi sì, è un argomento, ne parleremo. Andiamo al punto, lei di quale mostro vuol parlare? Dunque, volevo parlare, ogni tanto gli autori tiravano in ballo questo, il nome era lo scultone, non so se poi era così o se era un altro nome. Lo descriva. Era un grosso lucertolone che viveva in Sardegna praticamente, come se fosse stata una grossa lucertola ma di dimensioni grosse. La mia curiosità, può esserci qualche affinità, può essere vero che... Sentiamo subito, Maurizio genere. Mosca, lo scultone sardo, ne ha sentito mai parlare? Sì. Ah beh, vede che il fumetto è fonte di letteratura ma anche di certezza. Cos'è? Sì, si rifà tutto a un discorso di questo genere, praticamente... molto probabilmente è legato al fatto della presenza di rettili in Sardegna, quindi nella fattispecie salamandre o animali del genere. Sì, anche sullo scultone si diceva che aveva lo sguardo ipnotico, magnetico, insomma, tutte queste cose qui. Se noi prendiamo per esempio l'etimologia della parola drago, che deriva bene o male dal greco draco, draconis, addirittura dal sanscrito dr, che significa sguardo fisso, drago sta per serpente, quindi... è uno degli attributi, gli attributi demoniaci per eccellenza, esatto. E il dragone per eccellenza è... Esatto, quindi tutto si rifà sempre alla presenza di rettili. Chiunque di noi quando è in presenza di un rettile piccolo o grande si spaventa, ecco, quindi bene o male poi si enfatizza il tutto. Io volevo un attimino ritornare invece alla coerenza in cui questi animali strani si presentano nel corso dei secoli. Lei prima aveva citato il Gevaudan. Sì, ma un'ascoltatrice su Facebook me l'ha segnalato. Esatto, sì, è una storia. Poi hanno fatto anche un film, Il Patto dei Lupi, no? Se noi andiamo a vedere le leggende, le tradizioni della Lombardia, anche noi abbiamo avuto un Gevaudan, la bestia di Cusago, un lupo che sterminò parecchi giovinetti nel 1792. È il mitologico lupo di tutti i paesi di montagna di cui racconto, sì. Ma io andrò ancora oltre, visto che c'è anche un geologo, se non erro, in ascolto. Noi sappiamo per esempio, per chi se ne intende, dei celebri draghi processionali della Tarasca di Tarascona. No, non ne so nulla. Sì, è un mito, uno dei più famosi draghi processionali. Ebbene, anche ricordo, qui di Tarascona abbiamo... solo Tartarino, ricordo come elemento letterario. No, comunque è una leggenda che si rifà a Santa Marta, una storia un po' lunga. Il fatto che anche noi qui in Lombardia abbiamo avuto una leggenda simile del drago Taranto, che abitava un lago scomparso uscito dalla geografia secoli fa, che occupava la bassa bergamasca fino a Lodi, che veniva chiamato lago Gerundo. Abbiamo una breaking news. Massimo, che ci chiama dal parcheggio di Villa Borghese, dove pare ci sia un gatto che ha ammazzato un Doberman. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, è un fatto curioso, che parcheggiavo qualche anno fa la macchina nel parcheggio di Villa Borghese e vedevo 3-4 macchine della polizia che stavano intorno a un cartone un grande cartone con sopra un poliziotto. Cioè morto il poliziotto, no? No, il poliziotto stava sopra, sembrava un po' preso, un po' affaticato, un po', ma tutta la gente lì era un po'... E sotto il cartone stranita. Cosa c'era? C'era un gatto. Quanto grande? Chi l'ha visto? Io non l'ho visto. Ah, non si sa? Non lo so quanto era grande questo gatto, ma c'era un gatto che si aggirava lì ormai da 4-5 giorni. E sgozzava i Doberman. E aveva pure un Doberman, l'aveva praticamente incontrato, e lì con lo scontro il Doberman era rimasto... ha avuto la peggio in pratica. Vabbè. E anche aveva morso a passanti, insomma erano 4-5 giorni che lì in quella zona c'era il panico. Visto che siete tanto appassionati agli animali fantastici, io tornerò partendo proprio dalla storia del fantastico gatto sgozzatore del Parco Romano. Ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, ma soprattutto i nostri ospiti che si preparino a tornare su questo argomento quanto prima: Pasquale Saggese, Maurizio Mosca e Marco Signore. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.